è un progetto nato, posso assolutamente sì, sì, assolutamente è un progetto nato in un momento molto particolare, perché è nato diciamo 2 anni fa più o meno, no? Perché è dell'autunno del 20, eravamo nella situazione che possiamo ricordare. E ti è piaciuta, perché sei ancora qua mascherato? Sì, sì, mi è molto piaciuta. Su questo potremmo aprire anche una discussione. Un altro dibattito. Ma era tutto fermo, non c'era più quasi nessuna attività, anche a livello accademico le lezioni erano sospese, però esisteva tutta invece una frequentazione anche quotidiana tra insomma di gruppo, no? Tra studiosi e quindi è nata un po' così l'idea di fare qualcosa che non più fisicamente, perché fisicamente non ci si poteva incontrare, ma ci permettesse, brutta parola, virtualmente di creare un punto di incontro e anche di così dare la possibilità di far uscire una serie di riflessioni sul presente, no? Che comunque certo. Cominciava a determinare anche tutta una serie e a sottolineare sempre di più tutta una serie di problematiche che oggi sono diventate molto concrete. Quindi è nato in questo modo, col sostegno di tanti amici che hanno iniziato a lavorare intorno a questo progetto, che continuano a lavorare intorno a questo progetto e a portare avanti questo progetto, tra cui Carmen, tra cui Raffaele Santoro, Enrico Camprini, che oltre a occuparsi di arte e essere studiosi del tema si occupano anche proprio di tutta la parte social. E poi tutta una serie di studiosi anche importanti, docenti, ricordiamo Vittorio Boarini, che ci ha dato... Ah, il mitico Vittorio, l'abbiamo avuto qua in studio una volta. Che salutiamo allora. Lo salutiamo da lassù. Il nostro caro. Che ci ha dato... Un grandissimo lui. L'appoggio iniziale, ha voluto essere... nel progetto, e ci sono quelli che poi di fatto forse rimangono tra gli ultimi suoi iscritti, sono sulla rivista. Ah, che bello, me li vado a leggere allora. Quindi, e poi tutta una serie di amici che continuano a collaborare, e altri che si sono aggiunti, anche scrittori. Perché io naturalmente mi ero preparato e non ho neanche aperto il sito prima di... È il modo migliore di fare le domande. Esatto, cioè io mi metto nei panni di chi si sta ascoltando, che naturalmente, cioè poi magari tutti quanti hanno sfogliato tropicodelcancro.net anziché me. Insomma, diciamo che leggiamo immediatamente sotto il culture critiche del presente, che era un po' quello che ci stavi raccontando, ovvero un interrogarsi, no? su quello che è il momento attuale, dico bene, quindi con una prospettiva che si reinventa nel presente ogni giorno. Come ti faccio subito una domanda così molto leggera: com'è che vedi questo presente proprio come significato, no? Cioè di adesso oppure di... Partiamo leggeri, senso, no? Partiamo leggeri. Allora no, ma sì. Perché mi fermerei a riflettere su questo, visto che lo vedo. Allora, culture critiche, perché per noi adesso, poi soprattutto parlo della mia parte, io mi occupo di filosofia, e per noi che dentro il sito abbiamo questo interesse prevalente anche a livello di studi e professionale, cioè comunque per noi era importante sottolineare la necessità di un ritorno al pensiero critico. Certo. Che però non deve riguardare solo il pensiero in quanto tale, ma in senso ampio, quindi culture critiche, perché deve riguardare finalmente di nuovo, dovrebbe riguardare anche l'arte, soprattutto l'arte, che forse negli ultimi decenni, poi qui Carmen forse vorrà intervenire, negli ultimi decenni ha preso una deriva molto più spettacolare, certo. Stavo per dire modaiola, ma invece abbiamo bisogno di ripensare criticamente il nostro presente, no? E allora questo per noi era comunque un punto di partenza, cioè raccogliere interventi brevi, devono essere tutti molto brevi, anzi ultimamente ci stiamo anche un po' troppo dilungando, la nostra idea era proprio che fossero brevissimi, no? Flash. Esatto, ma che dessero comunque la possibilità di un approfondimento per esempio ci sono molti testi di cui pubblichiamo o l'introduzione o una parte, un capitolo, che dessero la possibilità di approfondire quelli che sono, diciamo, i temi importanti di questo nostro presente, no? Uno di questi è certamente quello ecologico, che per noi è uno dei temi fondamentali, legato al rapporto tra ecologia e capitale, ovviamente, no? Non è un'ecologia così giocata in modo astratto o semplicistico. Quindi poter in quel momento trovare uno spazio in cui portare avanti le riflessioni che poi normalmente facevamo a livello accademico, di seminari, di incontri, ma che non era più possibile fare. Certo. E poi diciamo che dopo un anno ci siamo detti: perché chiudere? Ecco. Grande. No? Sì. Sai che è uscito un nuovo singolo di Little Green che adesso ti faccio sentire? Wow! Senti, si chiama Lost in Limbo, persa nel limbo. Lost in limbo. Laundry in the evening and stray kittens chasing string. McCartney in my headphones and wet socks on my coffee. Mac and cheese for dinner, cheaper kind of therapy. Reminds me of my childhood, most tinted memories. Psychedelic dreams, echidnas on a trampoline. Lentils in my smoothie, cause I heard that it's healthy. Now the rain is pouring and my clothes are getting wet. Clouds of foreign country look darker than where I left. Yeah, my heart is where my home is, but don't know where I belong. Lost in limbo. Coffee in the morning while the birds are singing out. I listen to their song and try hard not to make a sound. Static on the radio as I drive on the dirt. Searching for the signs, I tune into the universe. Tell me where I'm going, don't remind me where I've been. I know I'm escaping everyone and everything. Now the fire's burning and my mind cannot forget. Flames of foreign country erase everything I left. But don't know where I belong. Lost in limbo. Non è male, è stupenda. Io ero convinto che lei fosse famosissima, invece non la conosce nessuno. Noi siamo i suoi fan. Cioè, sto video su YouTube ha tipo 54 like. Ma veramente? Giuro. Allora andatevi tutti quanti, ascoltatori di Coxo Spaziale, andate a Fujiko, andate tutti quanti ad ascoltarvi. Scrivete Lost in Limbo Little Green su YouTube. E andate a piacciare, naturalmente. Esatto, e anche a comprare il nuovo album. Nuovo album, sì, non so dove si troverà. Comunque, ritorniamo a... Partiamola a fare un concerto a Bologna. Infatti, sì, peccato che è in Australia, non è proprio dietro casa, però ci si può fare. Sì, adesso. Perché no? Perché no? Beh, tu ce la faresti tranquillamente. Ma torniamo a Tropico del Cancro, perché io vedo un sacco d'arte qua dentro. Avevo capito che era una rivista filosofica, più o meno. O una non rivista filosofica. A parte che vedo Chiara Pergola, che ormai la vedo dovunque mi giro, c'è Chiara Pergola che salutiamo naturalmente. Allora, sì, volevo riprendere anche un po' il discorso sul presente di prima. Grande. E creare un ponte un ponte sulla contemporaneità. perché sono andata a vedere la Biennale di Berlino e il titolo della Biennale di Berlino era Still Present. Wow. E quindi presente, ma nel presente, quindi contro una specie di proiezione, una ripresa un po' di una posizione di occupare, no, il nostro presente e riappropriarcene, che poi è diretta da Kader Attia e che lavora proprio wow, che adoro io come artista, posso dire. Sì, lavora sul concetto del riparare, dell'impegno, no, postcoloniale. E noi siamo anche un po' dal punto di vista della rivista su queste posizioni, oltre che naturalmente sull'ecologia, abbiamo recensito anche libri più di arte che trattano dell'ecologia, quindi non so, tipo Inclusioni, estetica del capitalocene di Nicola Bourriaud, piuttosto che un libro Arte, ambiente, ecologia di Gaia Bindi, quindi insomma cose riguardanti l'arte, mm-hmm, sul versante ecologico, in maniera più o meno, insomma, diciamo artivista, no? Per prendere, sì, certo, in prestito una definizione che è abbastanza moderna, che va per la maggiore in questo periodo, dopo il libro anche di Trione, ad esempio. E tu nominavi Chiara Pergola, poi ci siamo visti, appunto. Ci siamo visti. Era ieri mattina. No, mi sembra ieri, sabato mattina. Era sabato, no, era domenica mattina. Ah, domenica. Era, scusa, ieri mattina. Ti sembra, sì, passato un mese, ma sì, in realtà sono solo tipo 24 ore. Questo mi fa anche parlare, no, del progetto Le Copertine, a cui voi della radio siete invitati, perché è giusto anche ridare il dono, no? Il dono che ci va della trasmissione lo ridiamo in termini di copertine questo mese d'ottobre. È un progetto che è venuto in mente al geniale Stefano, che di arte se ne è occupato ampiamente in passato. Sì, certo, perché è stato direttore, fondatore, direttore della Stanza Rossa, la mitica Stanza Rossa, che è durata quanto? Un decennio? Quasi, sì, più o meno. Sì, su cui c'è anche stiamo parlando progetto... dal 92 al 2002. Stiamo parlando dal 91-92 al 98. Speriamo secolo scorso, di fare questo progetto col Mambo che ci avevano promesso, vabbè. Ah, giusto. È vero. Sì. No, si fa. Adesso che si dice si fa. Mi ricordo che si fa. Speriamo. Sì, vabbè, c'è stato un po' di Covid in mezzo, per cui. Sì, poi nel frattempo tipo Hidden Display, non so se ti ricordi, a un certo punto è crollato un pezzo di soffitto, per cui hanno chiuso la mostra e non c'era più. Però adesso nella Project Room c'è la Neon, che però sta finendo. Il 23 ottobre, esatto. Ricordiamo che ci sono anche le performance. Sì, no, fra l'altro, esatto, no, infatti fra l'altro dopo nell'angolo della menzione menzioneremo il fatto che ci sarà la presentazione del libro della Neon e anche performance, eccetera. No, insomma, c'è stata l'idea delle copertine che abbiamo dedicato all'inizio quest'anno alle gallerie, mm-hmm, e che ci hanno risposto in maniera, devo dire, anche interessata per questa rivista, in maniera invece Marco Roma ci ha risposto così: buongiorno, oddio, ti ho testato, ti ho provato, sei messa alla prova da me per vedere se mi ami, ma ho scoperto che sì, e allora ti esaudirò da Marco Roma. Buongiorno! Marco Roma ha amore corrisposto, sì, cavoli. Mamma mia, Marco Roma è un nostro fan che ci manda dei vocali, cioè un fan della radio, non di Coxo Spaziale, che ci manda dei vocali tutti i giorni verso mezzanotte. Sì, sì. Buongiorno, però a mezzanotte. Sì, sì, sì. È un fedelissimo. E finalmente all'inizio soffriva d'amore nelle sue canzoncine e adesso invece amore corrisposto. Per dovremmo fare una mostra Marco su Marco Roma. Infatti. Sulla sua evoluzione, tipo tra 10 anni, quando ci sarà un'evoluzione così, ci inventiamo e scriviamo la sua biografia. Quando ci farà dei buongiorno loffissimi, perché si è staccato anche il buongiorno, sono sempre Marco Roma. Esatto. Sì, sì, sì. Noi ti seguiremo, Marco Roma, ti seguiremo in tutte le tue evoluzioni. Infatti. Comunque, torniamo alle cose serie, visto che, scusate che vi ho interrotto con questa quisquiglia. Dove eravamo rimasti? Ah, le copertine. Le copertine, ma anche l'arte. Anche infatti l'arte. C'ha un pezzo, esatto. non così piccolo nel progetto. Ho visto che l'arte. C'è anche un intervento di Flavio Favelli, anche lui è un artista impegnato che scrive, no? Però ne ha scritto uno solo, per cui siete riusciti a farla arrabbiare a più colpo. No, è lui che ci ha chiesto, è stato carino. Vedi. Aver impegnato su questa idea, gli abbiamo detto ok, dai. Grande. Vieni. Su questa idea dell'ecologia, della cultura critica del presente o delle copertine separatamente? No, lui sull'arte pubblica ha fatto un intervento sull'arte pubblica, su cos'è l'arte pubblica. In realtà, accogliendolo, si potrebbe aprire un dibattito, perché è importante, insomma, non è stato seguito da altri interventi, però magari si può dare un seguito. È un'idea che diamo anche alla radio, no? Allora andate tutti a leggere l'intervento di... Dove sono gli autori? Non lo trovo più, eccolo qua. L'intervento di Flavio Favelli, che dice... Così. À la carte si intitola, e poi rispondete a tono, anche se lui l'ha scritto il 16, cioè è stato pubblicato il 16 luglio del 2021, per cui forse non si ricorda più. Si ricorderà. Così dice il sito. No, perché abbiamo sbagliato. À la carte, visto anch'io. Comunque, diciamo che io devo lanciare questa domanda: perché Tropico del Cancro? Anch'io la volevo lanciare. Ma perché è il luogo che non c'è, non quindi era l'idea di... Il Cancro non esiste. Di appunto un luogo che non esiste, no? È un luogo astratto, non poteva essere fisico perché di fisico non c'era più nulla in quel momento, se non la nostra... Certo. Così, volontà di riflettere e di riflettere, e quindi in quanto astratto è anche un luogo delle possibilità. Certo, sono possibilità di incontro che poi abbiamo visto, cioè, un po' ne erano sorte tante, no? Cioè tante, ne erano sorte diverse in quel periodo. Sarebbe interessante vedere cosa ne è rimasto. Certo. Dal punto di vista culturale non sembra rimasto molto, c'erano idee così, di cambiamento permanente, bravo, che invece è diventato, esatto. Saremmo usciti, il mondo non sarà più la stessa, cioè, cosa, infatti, cioè, è vero, però è peggiorato come continua sempre a peggiorare. Quindi c'erano appunto idee ottimistiche, sì, che saremmo usciti dalla pandemia in una sorta di paradiso terrestre, vero, un rinascimento economico, cose, sociale, dove tutti dove piovevano soldi, sì, da, no? Non so, c'è stato un attimo che a un certo punto al telegiornale si dibatteva su cosa fare con tutti i soldi che sarebbero arrivati post pandemia dall'Europa. Chi se li è presi, però? Bisogna chiedere al direttore del telegiornale per capire sta cosa, perché, cioè, ma tipo, per, mi ricordo sta cosa, promesse di felicità, esatto, e così tantissime false aspettative che non hanno. Voi però siete la quinta colonna, perché avete resistito, nel no, senso, appunto, sarebbe post-COVID. Interessante vedere, capire cos'è rimasto di tutto questo vario tentativo di incontrarsi, e certo, anche tentativi riusciti per un certo periodo, no? Noi abbiamo deciso di continuare. Certo. Abbiamo festeggiato il nostro primo anno, abbiamo deciso di continuare, anche perché poi nel frattempo si sono aggiunti altri amici, e quindi la nostra idea sarebbe quella di proseguire. Certo. E fatemi capire, perché così per chi ci sta ascoltando, Tropico del Cancro quindi è una sorta di organismo, in qualche modo, di microorganismo, no? Di una situazione di incontro, di riflessioni, pensieri sull'arte, sull'ecologia, sulla politica, sulla cultura, sul presente e quindi anche sull'orizzonte. Sulla sociologia. E quindi anche su una sorta di orizzonte collettivo, comune, che possiamo anche creare da questo incontro di riflessioni. Ho detto una possibilità. Certo. E se uno voglia di mettersi in dialogo con voi, cosa può fare? Se uno voglia di mettersi in dialogo con noi, c'è una mail sul sito. Di proposte ne riceviamo tante, le leggiamo, le valutiamo, alcune le abbiamo piacevolmente pubblicate. Ah, pensavo piacevolmente cestinate. No, altre no, no, cestinate nel senso che, per esempio, uno dei nostri problemi è che info@tropicodelcancro.net. Esatto. Noi non abbiamo in questo momento una critica letteraria. D'accordo. Ci siamo sempre posti il problema, però vorremmo anche che fosse così inserita nel nostro contesto, ecco. E quindi riceviamo moltissimi testi di letteratura anche da editori, perché la cosa bella è stato anche questo, che una serie di editori hanno cominciato a seguirci, anche ad appoggiarci, quindi ci offrono i testi. Sono tutti quegli editori che fanno magari libri di nicchia, di nicchia, di studio, politici, no? Editori come Ombre Corte, come Meltemi, e quindi su quello, sulla parte diciamo teorica, sociale, politica, filosofica e anche artistica, abbiamo usiamo questa parolaccia, background critico per poterla supportare. Per la letteratura in questo momento non l'abbiamo, e quindi quando ci arrivano testi, e ce ne arrivano, di poesia o di romanzi, certo, narrativa, non riusciamo a collocarli, no? Anche se abbiamo avuto interventi autorevoli, perché certo, abbiamo pubblicato, abbiamo un testo di Ugo Cornia, certo, abbiamo un testo di Rovelli, però loro già si inseriscono, diciamo, molto di più nella nostra linea, ecco. Non è il romanzo che arriva, hanno scritto una cosa per noi. Ci hanno mandato Tropico del Cancro di Vasco Rossi. Grande. Allora la sto suonando. È fatto da Dio. Grazie, anzi, chi ce l'ha mandata? Non ho il nome. Sono in faccia davanti al popolo, vedo. Però dobbiamo far partire le pubblicità fra un po'. Vi ho interrotto di nuovo per un'altra quisquiglia. E passarono gli anni. Così. E la gente. Chissà perché sto pezzo si chiama Tropico del Cancro. Questo poi è un Vasco Rossi. Questo è antichissimo, sì, sì. Quello di Alba Chiara, il disco di Alba Chiara, se non sbaglio. Era dedicato a stasera. Mai nessun altro lo vide più. Era bello sto pezzo. A me Vasco piace. Sei una gran tamara. E che non vuole più. L'uomo dai capelli bianchi guardò la gente dentro agli occhi, poi disse: fatevi curare, non c'è tempo per sognare, qui bisogna partire. Partirono tutti, nessuno rimase lì, come fermo nel tempo, ad aspettare qualcosa o qualcuno. Mai nessun altro li vide più. Dice che sono in America e che non voglio tornare più. Quando ancora l'America aveva un che di, no, era una roba di irraggiungibile, no? Tanto di non ritorno. Ma no, c'aveva un che di positivo, secondo me. Cioè adesso suona veramente anacronistico adesso pensare di andare in America e non tornare più, no? Cesare Pietro Giusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Sapevi che la maggior parte Galleria 16 Bologna. Spaziale. Volevo dire che la trasmissione più bella della radio è sicuramente Coxo Spaziale. Wow. Grazie. Wow. Hai sentito che vocali che ci arrivano? Incredibile. Cocos Spaziale è la trasmissione più bella della radio, Città Fujiko, che si potrà ascoltare anche su cocosspaziale.blogspot.com. E stiamo qua nella bellissima compagnia di Carmen Lorenzetti e Stefano Righetti di tropicodelcancro.net. Perché io invece facevo partire l'angolo della menzione, ma mi fermo subito. No, fallo partire. Lo faccio, fallo partire, siamo fallo, sicuri? Fallo. Sì, li lasciamo rilassare altri 5 minuti. Vai. Allora così. L'angolo della menzione. Cosa succede questa settimana? Un sacco di roba. Allora, abbiamo giovedì, comincio io, 20 ottobre, alle ore 18, il pittore Gianmarco Montesano presenta il volume Religione e Sovversione di Edizioni Andromeda. Pochi sanno che Gianmarco Montesano, oltre ad essere un artista e regista teatrale, è anche un fine teorico, un filosofo amico e sodale di personalità importanti della filosofia contemporanea, da Gilles Deleuze a Jean Baudrillard, da Félix Guattari a Tony Negri. Egli però è fondamentalmente un filosofo socratico, eccellente oratore, amabile intrattenitore, ma non prolifico scrittore. Alla presentazione, perché presenta il suo volume appunto Religione e Sovversione, prendono parte Fabio Cavallucci, Paolo Brunetti e Lorenzo Balbi. Questo è al Mambo, in via Domenzoni 13, giovedì 20 ottobre alle 18. Venerdì 21 ottobre alle 18 sempre il Time Lapse Extended è una mostra che ripercorre i 5 anni di collaborazione tra la Casa della Cultura di Calderara di Reno e lo spazio espositivo adiacenza di Bologna. La mostra è un'occasione per il pubblico di ricoprire il lavoro degli artisti che in questi anni hanno condiviso la loro ricerca e le loro opere con la città di Calderara di Reno, interagendo con la Casa della Cultura Italo Calvino, il territorio e la comunità locale. Tra gli artisti abbiamo Andrea Batangelo, Carolina Cappelli, Esther Grossi. No, ma soprassediamo sui nomi degli artisti. Elisa Mulier, un altro artista, Stefano W. Pasquini, lo volevo dire, se non lo pubblicizzo io, cioè, infatti, scusa. Chi mi pubblicizza? E altri artisti, e quindi vi aspettiamo alla Casa della Cultura Italo Calvino, via Roma 29, a Calderara di Reno. Olè. Adesso ce la posso fare, lo stacco oggi, non si stacca, non so perché. E dopo abbiamo sabato 22 ottobre alle 15 abbiamo il finissage della mostra No Neon No Cry con la presentazione del volume omonimo a cura di Gino Gianuizzi. E poi Carmen ci diceva che ci sono delle performance, sai anche delle performance di chi? Perché il comunicato ufficiale non è ancora uscito. Almeno Dario Bellini, che okay, porta una performance che lui chiama scultura teatrale domenica, però alle 16:30. Vedi, per cui un festone sabato domenica. La mattina domenica. Gianluca Codeghini, ah, grande, che è vero, fa, sì, concerto, mi sembra che suoni la batteria. E altro non so, perché non è che sia stato granché. No, perché per ora sono andato sul sito del Mambo cioè oggi nel primo pomeriggio e l'evento non c'era ancora. A me me l'ha comunicato Gino prima in persona. Prima di finire c'ho anche da dire di un'altra mostra, però magari okay, ce l'avete già voi. Può darsi che ce l'abbiamo. Vediamo, chi lo sa. Vediamo. Comunque questo è da sabato dalle 15 al Mambo, è sempre in via Domenzoni 13, eccetera eccetera. Sempre sabato 22 ottobre dalle 18 alle 21 inaugura la personale Something Filled Up My Heart With Nothing di Vera Portatadino con un testo di Sofia Silva. La mostra si snoda tra le tele e i tavoli che suscitano domande sul nostro rapporto con il tempo, con la natura e con la vita contemplativa. Da 8 Gallery Arte Contemporanea in via D'Azeglio 55. Invece domenica 23 alle 11 l'inaugurazione della mostra Padiglione Bologna, fogli sparsi per Monzuno, una mega collettiva di artisti a cura di Sandro Malossini, con tra cui ho citato solo quelle che sono già venute a Coxo Spaziale: Armenia Panfoncronica, Antonella Cinelli, Francesco Finotti, Lucia Lamberti, Massiel Lisa, Vali Palmi, Chiara Pergola naturalmente, Leonardo Santoli, e appunto questi sono solo quelli che sono passati già a Coxo Spaziale. Tutti gli altri che non sono ancora stati a Coxo Spaziale vi invitiamo a contattarci, che dovrete assolutamente venire. Questo è nello spazio espositivo della sala Ivo Teglia del comune di Monzuno in via Bertini 10 a Monzuno. Olè. C'era quella che volevi menzionare tu? L'hai detta tu, la 8. L'ho detta io. Anzi, l'ha detta la mia. L'ha detta mia. Ok, abbiamo finito l'angolo della menzione, possiamo andare avanti a parlare del Tropico del Cancro. Cosa volete raccontarci adesso di progetti futuri? Cioè no, di un futuro. Intanto facciamo due aggiunte di tematiche, nel senso che è importante menzionare tutto il lavoro sul fumetto, tutto il lavoro teorico sul fumetto che potete trovare sul sito. Che è Tropico del Canto, avanti, un lavoro che viene portato avanti da Matteo Gaspari. È un lavoro molto raffinato, ci tengo a sottolinearlo, perché effettivamente poi Matteo dovrebbe anche penso che stia cercando così di mettere insieme questi testi, anche di creare poi un volume, insomma. Certo. Però effettivamente un lavoro teorico sul fumetto, così come lo stiamo pubblicando, posso dire che forse per molti versi è una novità. Mm-hmm. Ed è fatto con una capacità e una raffinatezza veramente particolari. Wow. E abbiamo il piacere di... Scusa un attimo, volevo dire che per il fumetto siamo arrivati a lui anche tramite... Certo. Il corso di fumetto illustrazione dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, che è stato un pioniere, insomma, in Italia come corso, certo. Creato appunto da Enrico Fornaroli, che quindi, salutiamo. Sì, assolutamente, e anche insomma. Chi è? Non lo conosco. Emilio. E naturalmente la nostra liaison era stato soprattutto con Emilio. Emilio Varrà che insegna anche lui in accademia nel corso di fumetto e che ci ha introdotto a questi vari legami con questi personaggi che a noi insomma hanno dato tanto. Sì, sono stati importanti. Ce la cantiamo e ce la suoniamo. No? Vi invito veramente a leggere i testi. No, in realtà lo so benissimo, a livello didattico l'Accademia di Belle Arti col fumetto sta facendo. Sono testi veramente importanti. Ah, ecco perché perché si è tolto le cuffie, per quello che no. Non ti sento perché mi sono tolto le cuffie. Ok, no, infatti io ti interrompevo, ma tu continuavi a parlare. Okay. Ed era un momento abbastanza coxico, ma ci sta bene. Scusa, continua pure. Ti ho già interrotto tre volte, alla quarta ti lascio parlare. No, e poi abbiamo. Ogni tanto facciamo qualche approfondimento sul cinema o sulle arti visive, nel senso video e film. Abbiamo uno studioso importante, Alberto Brodesco, che anche lui è docente all'università, che su questo insomma ci ha dato alcuni testi e speriamo presto di averne assolutamente degli altri. Ma ci tengo anche a sottolineare che tutto questo lavoro non sarebbe potuto nascere e proseguire senza l'aiuto e l'entusiasmo di un grande studioso che è Ubaldo Fadini, che a Bologna molti conoscono per gli interventi che spesso fa a Bologna e per i libri che ha scritto e di cui questa settimana pubblichiamo anche un nuovo testo proprio in apertura sul bisogno di una nuova civilizzazione, una riflessione appunto che parte da quest'ultimo lavoro di Morin, e quindi ci tenevo a sottolineare l'importanza, lo spessore degli interventi che costituiscono, non che sono ospitati su Tropico del Cancro, certo. Ma che costituiscono Tropico del Cancro. La domanda mi sorge spontanea: ora che il Covid è finito, voi vi incontrate o no? O avete mantenuto questo format di incontro intellettuale, diciamo, astratto su questa linea presente e già mai presente? Perché è questa poi la riflessione che mi viene. Con alcuni ci si vede anche per motivi diciamo accademici di lavoro. Però una riunione Tropico, una pizzata Tropico del Cancro. Ma sai che è impossibile, perché per dire Brodesco è a Trento, cioè non siamo tutti in loco, no? E questo è anche l'aspetto bello, certo. No? E cioè non è una rivista locale, non è un progetto locale, per cui è difficile incontrarsi. E d'altra parte mi chiedo che senso avrebbe oggi, qui però si aprirebbe un altro tema, proporre o riproporre progetti locali. Non lo era nemmeno la Stanza Rossa un progetto locale. È vero, infatti avevate un bislacco corrispondente da Londra, esatto, che non rispettava mai le scadenze, mai. E non parlava di quello che volevate, di cui parla. Ma sul locale bisognerebbe approfondire, così, che senso ha oggi fare cultura locale? Certo. Sì, per noi ha senso, perché noi a Castel San Pietro dopo non ci sentono più, per cui se parliamo sì. di tutto quello che succede a Faenza, sì. non ha molto senso, perché a Faenza, cioè, salutando Matteo Zauli, però a Faenza non arriva a Radio Città Fuggita. Però da Castel San Pietro a Faenza uno potrebbe andare. Sì, in effetti non è lontanissimo, ci potrebbe anche andare a piedi, volendo. Però sì, no, capisco perfettamente, in effetti adesso fare cultura locale ha senso per Radio Città Fujiko e per il Carlino, insomma. No? Sì, direi, cioè si apre veramente un tema molto vasto dicendo questo, secondo me, perché poi alla fine è impossibile scindere, e ora la butto là, tu stoppami con una canzone, però è impossibile prescindere dal nostro corpo, che è per forza locale, no? E quindi anche allontanarci troppo da questa situazione di località quali siamo, a me un po' criticamente spaventa, no? Posso buttarla così. E io ti silenzio con una canzone. Radici aeree. No, nel senso che quello che dicevi non è in contradizione con la, no, col nostro spirito, perché allora noi dovevamo partire da una non fisicità o da una fisicità impedita, no? Dopodiché è anche il modo per collegare tanti amici che, per esempio, non so, studiano in Francia, lavorano in Francia. Certo. Ma non in senso globalista e basta, no? Nel senso che tutto questo, poi questa critica del presente deve avere, vorrebbe avere come obiettivo la riflessione sul limite fisico che siamo e in cui viviamo, no? Certo. È quello che poi in qualche modo la politica dovrebbe avere come certo. tema, anche se fatica ad averlo, ma cioè, quindi non vedrei contraddizione in questo, ma semmai la possibilità di aprire a più interventi e anche a più esperienze lontane, sullo stesso modo, cioè sulla stessa problematica di vivere il limite del presente, il limite fisico del presente, i problemi che pone il limite fisico del presente, no? Certo. Certo. Io ho paura a rispondere. Rispondi. No, però voglio soltanto dire questa cosa, che nel momento in cui si crea una sorta di comunità di discussione astratta, no? E quindi ci si incontra veramente nel dialogo, nella parola, nella riflessione, nel dibattito, questo incontro genera una sorta di città ideale o anche non ideale, ma comunque uno spazio o un luogo che possa essere supportato da un tempo, e questo luogo può essere visitato, a mio avviso, da esterni, e se solo nel presente, cioè solo esterni che partecipano a questo dialogo. E io mi chiedo nel futuro, quindi, se cioè, no, una traccia di questo incontro, di questa città, di questa comunità, di questa discussione si può trovare nella documentazione o nei siti, ma a me sono ancora un po' così, di quelle che piace passeggiare, girarsi a guardare una cosa che ha lasciato qualcuno 100 anni fa, e mi chiedo, nel momento in cui noi sviluppiamo delle discussioni così, così materiali o così distanti, poi cresceranno gli alberi? Cioè, hai capito quello che ti voglio dire, no? Mi vergogno anche un po' a parlare in diretta di queste cose che penso, che magari sono anche un po' complesse o speriamo che crescano così, gli alberi. Però mi sentivo di dirlo, infatti avevo usato l'offline e poi sono stata pregata. Se speriamo e vogliamo che crescano gli alberi, dobbiamo anche pensare a come far sì che continuino a crescere gli alberi. Questo, certo, volevo dire. No? Certo, assolutamente. Mi piacerebbe creare una situazione di incontro fisico, di questa non fisicità. Infatti, in effetti, è quello che io sento molto come necessità, perché lo sento. E devo dire che in ogni caso questo progetto ha aperto delle possibilità di incontro, perché comunque noi siamo a Bologna, no? Quindi partiamo, certo, da Bologna, noi ci conosciamo, abbiamo lavorato ancora nella Stanza Rossa anche con Stefano, a Bologna rimane un luogo da cui noi traiamo linfa ed eventuali possibilità di incontro, di comunicazione, di scambio, di passeggiate, visita di mostre, quindi alla fine, insomma, e c'è anche questo aspetto comunque, certo, che con delle persone anche nuove, no? Che per cui diciamo il progetto ha catalizzato degli incontri, è stato il motore di incontri, e speriamo anzi che questa cosa si espanda, si dirami, che questa rete lontana e vicina crei comunque delle possibilità di comunità anche concreta, insomma. Come si finanzia un progetto del genere? Zero, ecco. È completamente volontariato. Non ci sono finanziamenti. Facciamo un crowdfunding. Non ci sono finanziatori. Okay. Non c'è pagamento per accedere al sito. Anzi, questa è una cosa che, certo, che in realtà, cioè, abbiamo sempre di più, ma è importante. Abbiamo sempre di più informazione a pagamento. E abbiamo sempre di più, però, il problema di una democrazia in cui l'informazione a pagamento diventa un'informazione sempre meno fruita, oltre, sì, che sempre, esatto, meno fruibile, no? Sì. Noi come Tropico di Cancro non possiamo certo sostituirci alla informazione, però noi non usiamo tracciamenti del lettore, se non c'è soltanto il Google Search Console che ti dice chi ha fatto le ricerche sul browser di Google, certo, per avere un feedback, diciamo, del vostro. Non ci sono tracciamenti di nessun tipo, non ci sono finanziatori, non ci sono finanziamenti. Ovviamente, per poter andare avanti, prima o poi questo tema si porrà, ma non avrebbe senso, per esempio, che il sito diventasse un sito a pagamento. Certo. No? Questo è un problema, cioè, che comunque la comunicazione, anche quella culturale, si deve porre. È vero che esiste contemporaneamente il problema della professionalità che va riconosciuta, no? di chi fa comunicazione. Ah, certo. Ma esiste anche contemporaneamente il problema di una informazione che nella democrazia dovrebbe essere il punto di partenza, e che nel momento in cui diventa a pagamento certo, diventa problematico, diventa un po' un blocco. poter far sì che tutti abbiano accesso come dovrebbe essere. Ecco. Magari hai accesso ai social più strampalati, hai accesso a informazioni che non vuoi vedere, sì, sì, sì. No? O a programmi, esatto, commerciali più, esatto, astrusi. Ma invece siete i giornali online chiedono sempre, certo, di più. Sì, è, sì, vero, sì, è vero, sono, è vero, sempre più bloccati. Massimo ti danno una piccola anteprima e poi infatti poi non riesci ad approfondire. Del resto è uno dei problemi poi di questa nostra società di oggi, no? Cioè come fai girare la cultura se quella cultura non genera, cioè non è autosufficiente, certo, non è auto. Questa problematica è molto presente in vari gruppi che sono stati ospitati in Documenta 15 quest'anno. Ah, certo, esatto. Leggendo proprio i dibattiti, i workshop, i summit, insomma tutte quante. Il problema dei fondi era un problema sentito in molti, sì, ribadito, sottolineato. Eh sì, perché da molti. Questa nostra società adesso sta misurando tutto in ritorno economico. E naturalmente, cioè, come puoi inserire una biblioteca all'interno di una società se c'è quella bisogno biblioteca. Di quella biblioteca, cioè il ritorno economico di quella biblioteca verrà fuori in anni di letture che poi diventeranno persone, certo, istruite che poi faranno, certo, qualcosa che avrà un ritorno anche economico per la nostra società. Però non puoi vedere la biblioteca come un qualcosa autosostenibile, no? Cioè così come la scuola non può essere autosostenibile. O se lo è, esatto, o se lo è diventa una scuola elitaria, come succede poi, sì, e come la direzione anche un po', esatto, purtroppo la direzione adesso insomma stiamo andando, sì, che io vedo come una sorta di nuovo medioevo, cioè nel, certo, senso che chi ha il potere lo esercita e chi non ce l'ha non può fare altro, cioè, sì, non può fare niente che essere soggiogati da questo potere, no? E quindi cosa facciamo? Andiamo tutti quanti a fare agroecologia? No, potrebbe essere una risposta. Potrebbe essere una risposta. Oppure potremmo andare a casa, visto che sono le 20:54 e dobbiamo salutare e ringraziare i nostri ospiti. C'era qualcosa che volevate aggiungere per all'ultimo? Tanto ringraziarvi dell'ospitalità. No, grazie a voi, è stato veramente un piacere avervi. Sarebbe stato bello una trasmissione di 2 ore, sì, oggi. Sì, è vero. Ci, sì, stava. Alle volte ci sta. Sì. E per continuare appunto questo dibattito socio-filosofico su coxico, ma coxico poco, cioè coxico quando parte Marco Roma, che ringraziamo del suo vocale. Bene, allora grazie Carmen Lorenzetti, grazie a Stefano Righetti. Naturalmente il sito è www.tropicodelcancro.net, ma domani come al solito su coxospaziale.blogspot.com trovate tutti quanti i link e anche le foto delle nostre belle facce e delle vostre molto più belle ma mascherate. Grazie a voi. Io ero Mia, grazie, da Schio su Piei, e io Stefano W. Pasquini, e questo era Coxo Spaziale. Naturalmente vi salutiamo con le solite parole affettuose del nostro direttore, che ci dice così: con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. ที่ชอบมาเจอประจำก็เธอคิดถึงไงไม่ต้องเขินหรอกนะ oh never mind never mind ที่เธอทำมันชัดมากเลยรู้ไหมก็แพ้คนใส่ใจเพื่อนกันฉันว่าไม่ชอบฉันก็พูดมาเสียเวลาที่ว่ามาเพราะว่าฉันกรีดจะรักไม่รักจะรักไม่รักแค่พูดให้ชัดไม่กล้าลอกสัญญาชอบก็พูดเลยเพราะฉันรออยู่แค่คำว่าว me hurt to flirt. Day deep the lot, who ain't the lot, me hurt to tummy hurt. Been putting deek in that knee, been fan to deek in that knee. You're more than shash and while on my cock and lay deek on me. Make a high, top lay way, told my right go rap, nah. Tree do lay, I'll say say, tummy shan couldn't be all my tongue open, tongue cold day. Me me shay lilla, la. Young my pun got it. Shan go poo.